questa teoria sulla regionalizzazione dei conflitti come va d'accordo con il riferimento dello Stato nazionale, adesso l'analizzo. Allora, siccome è un regolamento un po' lungo e complicato, non posso togliere tempo ad Alberto, risponderò in mail, quindi chiedo scusa se non lo faccio stamattina. Invece oggi passeremo proprio direttamente, abbiamo concordato un approccio diverso, per cui cominceremo subito a far vedere come funziona un modello di simulazione finalizzato all'assunzione di decisioni. La situazione è questa, la introduco io e poi tu. La situazione è questa, siamo agli inizi della... Devi introdurre tutto subito. Se mi permetti volevo solo ricordarti, sì, per un minimo di coerenza, il discorso dell'altra volta, noi abbiamo parlato di presa di decisione e oggi prenderete decisioni. Abbiamo parlato di necessità per il manager di avere una rappresentazione in termini deterministici, anche se gli economisti preferiscono parlare di aleatorietà, del proprio sistema. Siamo entrati nel concetto di sistema, che abbiamo letto come quel luogo dove c'è un feedback o positivo o negativo tra una serie di variabili. Il concetto di variabili non ve lo richiamo più perché sennò ci perdiamo troppo tempo. Siamo entrati nella dimensione della complessità attraverso il concetto di sistema. Ecco, tutte queste conoscenze oggi le potete applicare a un caso effettivo che adesso Aldo vi racconta. Allora, il caso è questo. Siamo verso la fine del 2004 in Iraq. Del 2003, pardon, in Iraq. Ci sono già la guerra è stata vinta, si è insediato un governo, ma questo governo non è il governo iracheno ancora, è il governo militare di occupazione degli alleati. Voi sapete che per arrivare alle elezioni e alla formazione di un governo civile iracheno occorreranno ancora alcuni anni. Abbiamo un... che problema c'è? Il registratore? E dallo, portalo, dai. L'altra volta ce n'era uno che era una meraviglia, siccome io sono un grosso dettatore volevo chiedere, non è questo? Questo? Il suo è bellissimo, è digitale? No, non ancora, uno dei primi usciti. Ha un'aria... È uscito insieme al primo iPod, sì, solo che poi c'è della... Perché io uso un digitale che rispetto al vecchio nastro ha il guaio che mi mangia le parole fra una dettata all'altra. Sì, lo fa pure questo? Imparate voi che vi fidate della tecnologia. Allora, in effetti sono caduto malissimo passando al digitale. Allora, Maddalena è la più incazzata del mondo. Vai. Situazione. Pure. Dobbiamo assumere delle decisioni per stroncare l'incipiente terrorismo. Già ci sono stati una serie di attentati, sono stati già quasi 1000 morti. Noi dobbiamo assumere delle decisioni. Ora vi faremo vedere alcune variabili. Noi ci limiteremo solo a un aspetto perché diversamente perderemo troppo tempo. Abbiamo a disposizione una forza militare che va da 0 a 100. Noi dobbiamo decidere due cose. Dobbiamo decidere quale intensità di forza militare usare e per quanto tempo. Cioè, da un lato abbiamo l'intensità militare, cos'è? Beh, un'intensità per esempio 10 o 20 è un'intensità molto bassa, significa solo piccole azioni di controllo del territorio, una repressione molto limitata e mirata, e poi man mano si sale fino ad arrivare a 100, che significa l'uso massiccio di armi pesanti, rastrellamenti di massa, bombardamenti, cioè significa il massimo dell'intensità. Noi dobbiamo vedere che effetti abbiamo se aumentiamo l'intensità militare. In secondo luogo abbiamo il tempo. Per una ragione di comodità esplicativa, qui la variabile tempo la teniamo fissa a un solo valore, no? perché sennò dovremmo fare più valutazioni. Oddio, stai sconvolgendo anche Einstein, perché il tempo quanti valori c'ha? No, valore nel senso di 24 mesi. Sei un quantista, non lo sapevi, sei un quantista. Che non ho capito se è un insulto, ma insomma. No, allora, era l'unica cosa che Einstein affermava di non aver capito. Allora, qui assumiamo come valore più o meno standard 24 mesi per non fare troppe simulazioni. Ma non in realtà, è obbligatorio, lasciali. Ma comunque, vabbè, casomai lo decidiamo. Ovviamente l'atteggiamento può essere... Scusa se ti interrompo, ma è importante. La condizione è la minima. Voi potete avanzare nel tempo per un mese per volta, non per una settimana, sì, non per un giorno, eccetera, eccetera. Almeno un mese. Dopodiché potete andare da uno a infinito. Infinito non lo consiglio perché domani siamo ancora qua. Di qui al giudizio universale non è il caso. Allora, noi abbiamo ovviamente una serie di obiettivi da raggiungere, cioè di obiettivi di, come dire, allora, per esempio, dobbiamo valutare quali sono le perdite umane, gli attentati, cioè se io applico un grado di intensità X, quanti attentati e quanti morti ho? Se applico un grado di intensità militare Y, invece, ho più morti, ho più attentati, che succede? Ne ho di meno? Seconda cosa, è ovviamente il discorso è anche un discorso di relazione fra me e il nemico. Quindi, per esempio, da un lato io devo misurare il grado di consenso crescente al governo. Governo, ricordatevi, governo militare di occupazione, fra la popolazione. E però dall'altro lato devo anche valutare il grado di attrazione dei terroristi. E qui bisogna fare una specificazione. I terroristi non sono soltanto i terroristi combattenti di prima linea. C'è l'incerto, l'oltranzista che simpatizza ma non ha ancora deciso di fare il passo. Poi c'è il fiancheggiatore, che è quello che magari prepara la bomba, offre copertura e ospitalità al terrorista ferito e ricercato e così via, fino ad arrivare al terrorista di prima linea, che è quello che va a mettere la bomba, che può essere quello che mette la bomba e se ne va, o addirittura l'attentato suicida, il kamikaze. Tenete conto di una cosa, che le due variabili, oltranzisti e consenso al governo, non sono necessariamente in relazione fra di loro, perché l'oltranzista può essere anche relativamente indifferente al fatto che la popolazione dia consenso al governo, almeno fino a un certo punto. Quindi paradossalmente possono crescere anche le due cose, può crescere il consenso al governo e può crescere l'attrazione del gruppo terrorista sui simpatizzanti. Ancora un altro elemento che dovete tenere presente. Il consenso al governo da cosa è prodotto? Da una serie di variabili, soprattutto essenzialmente da una cosa, dalla percezione della minaccia terroristica. Un governo perderà consensi rispetto alla gente sia nel caso in cui la sua azione sia percepita come troppo debole. Qui la minaccia terroristica è sentita molto forte e tu stai andando troppo calmo, quindi non sei credibile, non sei in grado di assumere, sei troppo debole. Viceversa anche il contrario, cioè una percezione più bassa del pericolo, a cui corrisponde invece un'intensità militare più elevata, provocherà anche quello perdita di consensi. L'ideale è che l'opinione pubblica, diciamo, usiamo questa espressione, percepisca l'azione del governo come direttamente proporzionata alla percezione del pericolo. Quindi in qualche modo ci sia una corrispondenza tra le due cose. Quindi attenzione, non è il fatto in sé, ma la percezione del fatto quello che conta. Il governo peraltro non ha solo un problema di consenso interno, ha anche un problema di consenso internazionale. E sicuramente c'è il problema che un maggiore grado di isolamento internazionale ostacolerà l'azione, perché ad esempio i terroristi potrebbero più facilmente trovare consensi sull'arena internazionale. Quindi ci sono questa serie di valori che dobbiamo considerare per capire se l'azione che noi stiamo assumendo, la decisione che stiamo assumendo, avrà effetti positivi o no. Adesso vedrete un po' di esempi Chiediamo a loro? Sì, aspetta. Vedi che era meglio fargli vedere la slide. No, aspetta, dopo, gliele fai vedere dopo. Sì, però, dopo gliele fai vedere. Tu mi correggi se vuoi. E no, perché io, cioè, si è capito molto. Cioè, il linguaggio ordinario è un caso tipico, scusami se lo estrinseco, in cui il linguaggio ordinario non funziona. Aspetta, vediamo. Ragazzi, cosa c'è di chiaro di datemi chiaro? Un nome qualunque. Vabbè, dai, Claudio. Chi è Claudio? Il primo che c'avevo davanti, dai. Povero Claudio. Allora, qui giochiamo con uno che fa il generale. Allora, scusatemi, la meccanica del modello la devo dire, ecco, questo si può dire anche senza esagerare. Allora, il modello è what if. Che cosa succede se? Il se è la decisione di escalation. Il grado di forza militare impiegata, vi costringo a ragionare astrattamente, come dovrebbe fare ogni buon manager, però avrei potuto benissimo esplicitarla, no? Nel primo l'escalation è una variabile con dominio 0-100, caso 0 significa che io non ho proprio i soldati, oppure sono chiusi lì nelle basi, fanno i videogiochi, giocano con internet e chiuso il discorso. 100 significa, ve l'ha già illustrato, bombardo, mando i missili dalle isolette che stanno intorno, le porte aeree sparano, eccetera, eccetera, raida tutto spiano, no? Come si è fatto in Iraq, eccetera, per quanto per tempi limitati. Allora, questo è un if. If io faccio questo, che cosa succede? In realtà non è l'unico if, è l'if sotto il mio controllo, io sono il governo, voi siete il governo quando simulate, non siete la coalizione, per dirlo in un altro modo. Ci sono degli altri if, no? C'è la condizione delle risorse, per esempio, che è un tema che è importantissimo e spero che di riuscire a farvelo scoprire facendo le cose. Adesso in questo momento noi prendiamo una decisione, proprio le due dimensioni che ha detto prima, una dimensione contenutistica. Quante escalation impieghiamo? Ma attenzione, non deve essere disgiunta dall'altra fatto. Per quanto tempo? Vale a dire, detta in termini modellistici, per quanti mesi? Ditemelo. Allora, uno che faccia il buono e uno che faccia il cattivo, so già chi è. Chi vuol fare il buono, il generale buono, quello che tende a economizzare la forza militare? Tu, vabbè. Chi vuol fare il cattivo? Cosa facciamo poi, una media? Figurati. No, uno ti suggerirà la soluzione cattiva e uno ti suggerirà la soluzione buona. Vabbè, ma tu vuoi fare due simulazioni, non le posso fare contemporaneamente, eh? Non ci occorre quel motivo. Prima faremo il buono. Ah, ecco, però allora è inutile. Prima parliamo in un modo, poi esatto. Visti, se volete, visti i risultati, ma se no non visti, perché però mi sembra che li metti in una condizione iniqua, abbi pazienza. Visti i risultati della prima, esce un altro, a questo punto non c'hai bisogno di buono e cattivo, e dice no, è stata una cazzata, azzeriamo tutto e la facciamo in un altro modo. Allora, il primo valore, dice il buono allora? Allora, molto bene. Blanda è, in questo momento è già in memoria molto blanda, è un buffettino, non gli do niente di più. Valore 10, se vuole lo abbasso, se vuole lo alzo. Diciamo 20. OK. Vedete che è molto semplice usare un modello, io scrivo qui 20. È l'unica decisione che vi lascio prendere, la metto in memoria, torno al menu principale. Adesso a questo punto voi dovete prendere la fondamentale decisione di quanti mesi volete andare avanti. Siete al 31 dicembre del 2003. Momento, e tenete conto di una cosa per rendere la simulazione un minimo realistica. Avete a che fare con un esercito americano che è premuto dalla questione dei tempi, perché la strategia adottata dopo il 2001 dal National Security Council è una strategia che tende a orientare la capacità di intervento militare degli Stati Uniti, possibilmente a zero morti per se stessi, in qualsiasi parte del mondo, però questo significa l'impossibilità di reggere un teatro di operazioni troppo a lungo, perché altrimenti poi, e infatti quello che è successo, Afghanistan e Iraq hanno finito per immobilizzare l'azione americana in altri contesti. Quindi tenete conto anche del fattore fretta che il generale ha. Quindi tenete conto del fattore fretta, però dovrebbe agire sull'intensità fretta della forza, non sui tempi di simulazione. I tempi di simulazione cosa c'entra col fattore fretta? Poi magari andare avanti 5 anni e vedere se per 5 anni è finita. Ma tu vuoi ottenere il risultato velocemente. Appunto, ma alzi la forza, non cambi forza. Ma però la forza l'abbiamo già messa e adesso è il tempo che dobbiamo decidere. Va bene, allora, entro che tempi volete operare? No, quanto tempo andare dovete andare avanti? Non c'entra che tu abbia fretta tu, perché questa è l'informazione, cioè tu. Sì. E la forza, tu senso ti intendevi sulla forza, abbi pazienza. La forza sì, ma attenzione, il problema è anche entro quanto me ne devo andare. Vabbè, ma se io qui scrivo un mese, non ottengo nessuna risposta, capisci? Aldo, non c'entra niente, abbi pazienza. Non volevo dire. Vabbè, allora diglielo tu, allora, evitiamo sta cela. Date un valore di tempo, forza. Allora, che valore di tempo vuoi dare? Ricordatevi che siete nelle condizioni realistiche. Ecco, 3 mesi. Lei pensa con un esercitone della Madonna di vedere qualcosa di sostanziale in 3 mesi? Ragazzi, siete veramente oppressi dal breve periodo. In 3 mesi vedete un cazzo. Io scrivo 3, ma non vedete niente. Non cambia nulla. Devi considerare. E per quello, scusa, che ho preso quella posizione. In 3 mesi non è che vai via prima. La realtà non cambia che si dura avanti 3 mesi o 2 o 5. Anzi, se ogni 3 mesi cambio la decisione, il sistema è disturbato per definizione. Poi se tu vuoi avere un risultato, su 3 mesi non serve a niente, ovvio, no? Ma vuoi avere un risultato con una forza 20, è poco probabile in 3 che mesi proprio veramente tutto. Peraltro prende atto del sistema, ma vede la storia, ecco, ve lo ricordo, breve e lungo periodo, ne abbiamo parlato l'altra volta, è una delle minacce dell'umanità. Allora forse un tempo realistico, tieni presente che le forze vanno mobilitate, va iniziata l'azione deve avere dei risultati. Dal momento in cui lei ha deciso passa del tempo che diventi effettivo, si figure con 40-50 generali per le palle, lei dice domani si attacca e guardate, devono ancora, guardate l'Afghanistan, gli hanno chiesto di avere forze nuove lì, il McChrystal, no? Quello che tra l'altro è quello intelligente di tutta la pattuglia. Adesso è passato un anno, Obama ha dovuto rinnegare i suoi principi e dargli le forze in più per l'Afghanistan, ma non sono mica ancora arrivati e sono ancora lì probabilmente, che navigano nel Pacifico prima di arrivare. Cioè i tempi di ogni presa di decisione sono lunghi, in particolare questa che muove un macchinone. Allora, cioè, quando io ho detto tempi brevi era relativamente brevi. Allora, che tempi dai? Quanti mesi? Allora andiamo nei 12 mesi. 12. Se volete. Va bene. Allora, vediamo. Tu non sapevi di essere un generale americano, adesso lo sei. Vergognati. Andiamo avanti. Allora, vogliamo vedere qualcosa o vogliamo fare la simulazione del cattivo? Diamo tutti e due i valori e li confrontiamo? Con le due curve? Se vuoi. Su 12 mesi ti voglio vedere quando. Allora, aspetta, no, allora devo memorizzare. No, fai no, una cosa, no, fallo su 24. No, perché se no sembro. Allora, chiedo scusa, fatemela mettere in memoria. No, fallo su 24, che 12 non si vede niente, dai. Fallo su 24, dai. No, signori, non è. Questa è conoscenza delle cose, in effetti. 12 mesi. Cioè, pensate un anno quel macchinone lì, adesso addirittura, ma mi rendo conto, guardate che non siete diversi dal 90% dei manager italiani. Questo è il guaio. La cosa buffa è che dicono, fra 3 mesi dobbiamo vedere dei risultati, tra 3 mesi la decisione che hanno preso non è ancora diventata effettiva, no? E questo è un caso, noi l'abbiamo messo dentro perché è vero. No, metti 24 mesi che è la prima cosa realistica. Dai. Mantengo la decisione, 24. Allora, vediamo 2 anni perché dobbiamo vedere anche la percezione da parte dell'opinione pubblica. No, ma interessante è la cosa. Allora, il cattivo, chiediamo al cattivo. Bonino, devo memorizzare. Un attimo, allora, non essere impaziente. Ci sono dei passaggi che devo guarda fare. Guarda che abbiamo già fatto la prima mezz'ora. Ciccio, io non posso. Cacchio, vado alla velocità della luce. Allora, lo chiamiamo Lezio 1, va? Allora, come la chiamiamo quella del cattivo? Lorenzo, come lo vuoi chiamare? Stefano. Ah, Stefano. No, pardon, no, lui è il buono. Allora, il no, cattivo... l'hai chiamata Claudio l'altra. Claudio, vabbè. Adesso la chiami? Questa chiamiamola Stefano, dai. Allora, abbiamo deciso che questo che cos'è Stefano, il cattivo? E Claudio il buono? Vabbè. Quanto? Allora, il cattivo, abbiamo detto 20 il buono e Claudio che è il cattivo, no? Quanto dici? No, non dire 100, dai. 60. 60 lei è medio alto, non è così cattivo come si vedrebbe in video. Ecco. È abbastanza bonino. Ecco. 60 allora, 20 contro 60? No, facciamo 75. 75. No, no, 75 è un valore. Scusatemi, vale anche nella vita, no? Le variabili non numeriche, che non vengono cioè presentate numericamente, ma ogni valore si misura, se no non avrebbe titolo al mondo, è buona regola dividere su scale qualitative, no? Uno fa basso, medio-basso, medio-alto e alto. Quindi in sostanza dividerle in quarti. Lei ha fatto 75, vuol dire 25 più 25 più 25, e lì vedo sti bombardieri che stanno andando, e cioè cattivello è cattivello, a questo punto è nel quadrante alto. 75. E vado subito per 24 mesi, no? Perché il modello vi costringe a queste cose, per confrontare vuole lo stesso tempo, se no non confronta, si rifiuta, giustamente. Non si confrontano pere e mele. Metto in archivio e poi andiamo. Allora. Allora, partiamo da una cosa, teoricamente quello che ha espresso i valori di intensità maggiori si aspetta. Adesso lo facciamo. Aspetta. No, lui si aspetta. Facciamoglielo vedere, almeno facciamogli vedere le variabili, perché detto tutto così non va. No, gli facciamo vedere le variabili che ci sono. Aspetta un momentino. Lamberto, la logica è che se uno alza l'intensità è perché vuole avere risultati in tempi più brevi. Ma loro non sanno su cosa li leggiamo i risultati, non gliel'hai detto. Gliel'ho detto, vai avanti. Va bene, allora chiamatemi una variabile, facciamo la sfida. Ditemi, io adesso allora metto in confronto, un benchmark, due variabili che voi sceglierete. Se no gliele faccio leggere un attimo. Oh, allora, era quello che ti dicevo. Allora, dentro che cosa c'ho? Delle cose molto fisiche, per esempio c'ho gli attentati che ci sono stati. Espressi in numero di attentati, in gravità di attentati, quanti vittime, il numero degli attentati significa il numero degli eventi in sostanza, la gravità significa quante persone per attentato sono morte o inabilitate, l'inabilitazione abbiamo sempre considerato equivalente alla morte, il prodotto dei due mi dà il totale delle vittime che si sono avute nella mia area geografica, delle vittime, ovviamente questa è una variabile fondamentale, no? Io in fondo cosa faccio? Sto cercando di minimizzare. A fronte di ciò ci sono degli indici, anzitutto mi dicono quanto io ho messo la mia decisione in campo, vi ricordo non è simultanea, nessuna decisione è simultanea, peggio che mai queste qua, ci mette del tempo per essere esecutiva. Poi leggo dei concetti di efficienza e di efficacia che vi definisco, però da parte dei miei, del mio popolo, la minaccia terroristica percepita quant'è? Quanto la sentono, perché su questa base, ve l'ha già detto prima, misuro il consenso al governo, che sarà funzione della coerenza fra l'escalation e la minaccia percepita. Se io faccio il cattivo, ma la minaccia è bassa, io perdo consenso, perché la gente dice cosa stai lì a sparare coi cannoni quando in realtà non ci sono attentati. Ma l'inverso è molto peggio, vi ricordo la reazione degli americani, tuttora è molto viva su questo. Se io faccio escalation bassa, ma quelli mi fanno gli attentati, il mio consenso va a zero. Sta succedendo anche Obama in questo momento, no? Perché sulla minaccia si è molto sensibili. E poi ho altre cose. Una variabile importante è il sostegno internazionale che io ho. Funzione di che cos'è? Il sostegno internazionale è funzione dei fracassi che io faccio dentro quell'area. Per esempio, se io alzo la mia escalation, avrò molti di quei cosiddetti danni collaterali, no? Le vittime che non c'entrano un cacchio, bambini, vecchi, donne, che muoiono nei bombardamenti fatti a tappeto, no? A questo punto il sostegno internazionale scende, anche se vi ricordo che chi muove tutte ste robe, perché il modello è realistico, sono i signori americani, per cui togliergli il sostegno agli americani lo possono fare i cinesi adesso, no? Gli italiani sicuramente non glielo tolgono, ecco, il governo italiano, vi ricordo allora che tra l'altro eravamo, in quel momento eravamo nel paese. Ecco, su tutte queste cose voi adesso potete leggere gli effetti contrapposti delle due decisioni, a confronto. Un momento, anche devi calcolare la capacità di attrazione dei terroristi. Sì, che sì, è quello sì, che sì. Poi la definisco io. Allora, cosa volete vedere? Io direi, adesso scusate, vi do una spinterella, io vedrei innanzitutto se il terrorismo è aumentato o diminuito, perché è importante, no? In fondo faccio tutto sto casino per averne meno, eh? Vi spiace se vado direttamente sulla variabile di fondo, che è il numero delle vittime? Vi spiace se ve la do direttamente in diagramma, che leggere i numeri serve a pochissimo. Un bel diagramma, fatemelo illustrare un momento. Qui sugli assi orizzontali, detto anche asse delle scisse o asse delle X, ci Alberto, mettiamo il tempo. Alberto, stai dando la simulazione precedente, quella che abbiamo fatto noi, sì. Non quella loro. Hai ragione, non l'ho messa in memoria. È analoga, perché devo dire, adesso, devo dire, siccome sono abituato a usare manager molto più cattivi di te, perché mai fatto fretta? Ma non è vero, non l'ho messa... No, mai detto, il tempo fa, e hai ragione, cancelliamo Aldo e Sabino, che lui ha già giocato, è il malefico. E mettiamo, hai ragione. Lezio 1 e lezio 2, se non... eccolo. Ok, Claudio e Stefano li salviamo. Vi dicevo, gli attentati, poi dopo andate avanti voi, Rangeves. Allora, vi dicevo anche che li porto direttamente il diagramma, ma ci sono tabelle a iosa. Eccolo qua. Allora, commento. Il cattivo ha ottenuto più vittime di attentati del buono. Decisamente di più. Sia pure con un andamento simile. Sì, l'andamento è simile, però abbiamo questo. Il cattivo addirittura non solo ha avuto più attentati, poi sono scesi, peraltro, ma il valore finale indica una tendenza sia pure molto... Tuttora la crescita, giustissimo. I trend bisogna sempre guardarli, ragazzi, anche così qualitativamente come ha fatto lui. La punta finale è di nuovo di ripresa. Mentre invece il buono tende a stabilizzarsi. Quindi, perlomeno dal punto di vista degli attentati e delle vittime, sembrerebbe più centrata l'azione di Claudio. Vediamo. L'azione del buono, sì. Però possiamo anche chiedere. Dimmi tu, vai avanti, adesso sentiamo loro, come andiamo avanti? Ci chiediamo cosa il perché di questo sapere? O vediamo delle altre cose? Perché magari il risultato del sistema. Ci sono altre cose che sono piacevoli. Ricordate che dobbiamo vedere varie cose, il consenso al governo, la percezione del pericolo. Mi dica. Ignoranza, c'era proprio per i bambini, ma il picco in entrambi i casi è sui 12 mesi. Non è legato al... No, è un po' dopo. Ma il picco vero è a marzo del 2005. Nel caso invece di Claudio è a gennaio del 2005. Sì, è semplicemente un tra febbraio e marzo, precedente, ma... lì poi di un mese successivo. Comunque il complesso della curva è decisamente tutto nei primi mesi del 2005. Sì, è qui che si concentra il picco. Poi però c'è una discesa molto rapida, bisogna dire, in entrambi i casi, ma sempre con quella linea di tendenza. Cosa vuoi sapere? Se sono aumentate le vittime di attentati, io mi chiedo invece quanto è aumentato il consenso verso i terroristi. Ah, quindi il grado di attrazione che noi chiamiamo attrazione verso lo stranzismo. Vediamo un po'. Va bene, vediamo. Ricordo che il successo è sempre una buona cosa. Il successo però non è necessariamente il numero di morti, è il risultato politico che ottieni. No, il successo per i terroristi non è il genera insieme ad altri fattori. Allora vediamo che succede. Infatti però questa magari è pesa e grossa. Lo so che non abbiamo tempo, Ciccio, però non possiamo neanche passare messaggi distorti. Se no cosa serve tutto ciò? Allora, lei vuol vedere l'attrazione. Eccolo qua. Sì, sì, sì, non ti preoccupare. Ecco il diagramma. Per risultato abbiamo un grado di attrazione che schizza sotto la volta. E il bello è che in tutti e due i casi, solo che Claudio ha una tendenza a scendere come trend, sia pure dopo aver toccato anche lui il livello addirittura 99-96 di attrazione, che non è uno scherzo. Mentre invece Stefano ha avuto praticamente si solo alto, ma si stabilizza, ha una lieve, così, lievissimo discostamento, ma poi si stabilizza sui valori più alti. Quindi ancora una volta tendenzialmente entrambe le cose non sono riuscite a limitare la forza di attrazione del terrorismo. Se però, l'obiettivo era quello, ti sicuro. Se l'obiettivo è quello non è un risultato positivo. Però c'è da dire che Claudio, che era il buono, se non sbaglio, ha 10 punti di differenza alla fine. Ha 10 punti di differenza alla fine. E tendenza in discesa. Tendenzialmente è quello che sta avendo i risultati migliori anche in questo caso. Però guardate, c'è questa cosa di una capacità di attrazione molto elevata. Vediamo che altra variabile vogliamo vedere. Dimmi. Scusi, deve essermi sfuggito qualcosa. Claudio non era quello che aveva messo 75? No. Sì. Claudio è il buono. Il buono, è bello, infatti, è giusto. Ha un e Stefano il color cattivo. Azzurro, il colore mariano, quindi. Allora, che cosa vuol vedere Molinelli? Cosa vuol sapere dopo? Cosa vorrebbe vedere? Il consenso. Consenso al governo, Diena? Vabbè, allora, vediamo il consenso al governo, che è successo. Diagramma. Allora, Claudio, che è il buono, c'è un consenso al governo che fa veramente schifo, devo dire, perché lei è un disastro, non le affideremo mai la presidenza del Consiglio, guardi perché il risultato è la cosa. Invece no, Stefano ha un paradosso, cioè, e questa è una cosa già controintuitiva da spiegare, com'è che Stefano è quello che ha i risultati meno apprezzabili, però ha il consenso più alto. No, no, perché il consenso è sempre del popolo iracheno, non di quello americano, attenzione. E quindi come mai? Ecco, cominciate a porvi questo problema. Vedete, questo è già un effetto controintuitivo. Stranamente è premiato quello che ha i risultati peggiori. Perché? Non è forse la percezione appunto che la gente ha del terrorismo, perché se ci sono. Vai con le percezioni. Alberto, vai con la percezione. E infatti credo che sia quello che in buona parte spiega. Terrorismo percepito come il caldo percepito. Quale potrebbe essere il risultato? Che di una ricerca di mercato. Cioè, vedete, c'è una percezione molto simile. Simile in tutti e due i casi, che schizza verso l'alto. Però alla fine del 2005... Beh, vi ricordate una cosa, che il picco degli attentati è qui. Quindi man mano che gli attentati aumentano, vedete, la percezione del pericolo sale fortemente. Quindi evidentemente che succede? Che nonostante Claudio abbia i risultati migliori, e tutto sommato vedete che sul lungo periodo... Posso spiegarlo? Sì, allora, il consenso, e credo di poterlo discutere se credete, nel caso specifico ovviamente l'ottica è piccola, il consenso è il risultato di un calcolo di coerenza che matematicamente è balordo, però credo detto in parole, coerenza fra l'azione del governo e nel caso specifico una delle variabili fondamentali è la minaccia terroristica percepita. Se noi prendessimo le sole due variabili e le mettiamo vicine, quando le due variabili si sovrappongono, nel caso specifico quindi escalation e minaccia percepita, il rapporto diventa uno, no? Se le due variabili si sovrappongono, qualunque valore abbiano, piccolo, medio, alto, il consenso è alto, il governo sta facendo quello che io penso in termini di minaccia. Quando le due variabili si scollano, nel bene o nel male, il governo sta usando le misure forti e io non sento una gran minaccia terroristica, il consenso scende. Ma il viceversa è molto più forte, vi ricordo abbiamo proprio delle analisi di mercato, non so nel vostro campo come si dice, ma altrove si direbbe analisi di mercato, sull'atteggiamento degli americani, e quando fai poco che effettivamente il consenso salta subito giù. È il caso appunto di Obama che ne ha perso molto. Quindi se l'escalation è più bassa della minaccia percepita, quindi questo spiega il fatto che tutti e due per un bel po' sono stati incoerenti. Alla fine però Stefano è più coerente di Claudio ed è in fase di netto recupero sul consenso, come abbiamo visto prima. Se volete però attento, c'è una cosa che dovremmo, vabbè, adesso non andiamo troppo nel dettaglio. Stranamente c'è quella curva in basso nella percezione a un certo punto e poi c'è una ripresa, mentre invece l'altro si mantiene costante e poi cala. Sì, e non è neanche una curva tanto piccola, perché sono la bellezza di un 12 punti, anche un po' di più. Si tratterebbe di capire perché a quel punto. E qui però devi andare a analizzare variabile per variabile. Il vantaggio che noi abbiamo sugli storici. Cosa che noi non faremo adesso. No, perché ci vogliono ore. Per darvi l'idea di come possano presentarsi delle cose. Perché questo modello è una parte molto piccola del totale modello terrorismo, no? E sono, però intanto c'è 180 variabili endogene, quindi non è uno scherzetto andare a cercare poi il perché delle cose. È chiaro che sul consenso incidono anche altri fattori. Vogliamo vedere una cosa? Vogliamo l'internazionale, vedere, ecco, come la pensano come il la resto del mondo, le potenze non allineate di quello che ho fatto, che potrebbe essere un altro degli obiettivi della mia presa di decisione, perché anche alla signora America non conviene averli tutti contro di me. Sostegno internazionale al governo. Io scommetto che qui si scollano un po' di più, e infatti si scollano. Tutti e due lo perdono. Però Claudio tutto sommato lo perde perché probabilmente è percepito come debole, però la debolezza è sopportata livello internazionale, cioè in fin dei conti non fa troppi danni, su. Per cui si mantiene su un valore di 64 praticamente. Mentre invece Stefano che fa fracassi perde 25 punti, un c'ha quarto una botta di quelle. Guardate che questo può essere interessante, sapete perché? Voi avete visto che l'azione terroristica degli attentati schizza più o meno fra, diciamo, febbraio e marzo, per intenderci, dell'anno successivo, del secondo anno. Potrebbe essere, potrebbe esserci... Non lo è. Il sostegno internazionale, certo che c'è anche quello. Qualcuno però, che gli ha dato altri. Però attenzione, vorrebbe dire che è anticipata. Adesso... Le potenze sono importanti che siano anche preveggenti mi sembra troppo. No, qui abbiamo le vittime, cosa che non abbiamo mai guardato. Se tu hai bombardato e ci sono morti 300 bambini dell'asilo Lido sotto i bombardamenti, è chiaro che i cinesi fanno un caso, i russi poi non ne paghiamo. Sto facendo un'altra domanda. Il picco è qui, perché probabilmente. Però comunque sia, gli attentati avvengono qui, vengono qui. Sì, D'Amberto, il problema è, ti sto chiedendo se qui non lo devo leggere come il fatto che qualche potenza ostile al governo alleato d'occupazione ha iniziato ad appoggiare. Ma perché non andiamo a leggere la variabile principale? E andiamo a vedere quello, era quello che ti volevo chiedere, per capire se c'è questa relazione. Perché dobbiamo fare delle ipotesi, ne fate già tante del vostro mestiere, qui che non le devi fare. C'è la capacità di... Vediamo se prendo una variabile. Ecco, prendo i bersagli colpiti dall'antiterrorismo. L'azione militare ha dato i suoi frutti, guardate, ci ha messo del tempo, guardate come ci impiega a carburare, in pratica quasi tutto il primo anno passa uguale, ma è la realtà, signori, se vi portate solo a casa il concetto di inerzia nelle cose del mondo, in particolare nelle variabili che più vi sono pertinenti, quelle qualitative, perché nella fisica l'inerzia è piccola cosa ed è facilmente misurabile. Ma nel vostro mondo, non nel mondo dove ci sono fattori umani, l'inerzia è una variabile che si sottovaluta e si svaluta sempre. Ma lo fanno anche gente che ci ha passato la vita sopra, poi al momento più giusto. Io tra l'altro sono reduce da 3 giorni di un piano che dico, come cazzo vi aspettavate l'anno scorso che già dopo aver comprato la Chrysler già si vedessero i risultati adesso che non abbiamo ancora fatto un benché minimo cavolo di niente. Ed è così, l'uomo tende a sottovalutare l'inerzia che lui stesso spesso produce per motivi burocratici, per motivi di negoziazione, di rispetto dei anche valori. Di resistenza dell'ambiente. O di resistenza dell'ambiente, giustissimo, quando c'è, eccetera. Qui però sono militari e dovrebbero scattare. In realtà per un anno quasi, quando mai infatti, ma il discorso dell'Afghanistan, però poi quando partono di gente ne ammazzano tante con la simulazione Stefano. È chiaro che qui, io purtroppo non l'ho memorizzata perché è stato un errore mio, qui le vittime e i danni collaterali si sprecano. A questo punto Putin ha cominciato a dire ragazzi e a togliere il suo sostegno. Lì Ho Chi Minh, come diavolo si chiama, si è tirato indietro, i brasiliani figuriamoci hanno detto questi americani sono stronzi eccetera eccetera, e il sostegno infatti l'abbiamo visto prima se ne va giù e crolla. E qui che prego il sostegno. Però all'inizio la simulazione precedente riguardo al rinnovamento internazionale è così da funzionare il governo, la rimetto se avete visto questa, così parliamo di cose, ecco che le vediamo. Sì, è sembrato, almeno a me è sembrato che piano Stefano fosse più attraente per la comunità internazionale, tanto è vero che è partito da un livello più alto di gradimento, poi è sceso drasticamente probabilmente dopo aver visto gli effetti, perché non ha calcolato il tempo come abbiamo visto canale. Sì, perché quello che diceva prima il nostro professore non era sbagliato, cioè anche l'ammazzare terroristi soli al sistema internazionale interessa entro certi limiti, no? Però vedete come va giù. Forse anche per la storia di non essere riuscito a carburare una forza. Allora, aveva poche vittime collaterali, però faceva vedere che loro coi terroristi avrebbero avuto la mano dura, in effetti, però, per un piccolissimo periodo, però attenzione, subito dopo. Perché? Per un motivo semplice, perché come avete visto, nonostante la repressione molto forte, gli attentati e il grado di attrazione dei terroristi sono costantemente saliti, fino a toccare il picco a questa altezza. Quindi se tu mi applichi delle misure repressive molto forti, dell'intensità militare molto alta e hai risultati non soddisfacenti, è ovvio che quello. Ed è interessante che il crollo sia più nella comunità internazionale che non nella comunità interna, che invece dà consenso al governo. Perché, ecco, una differenza probabilmente di valutazione, probabilmente. L'opinione pubblica giudica molto spesso sulla base del bisogno immediato. Il governo ragiona in termini di razionalità politica astratta e quindi proiettata nel futuro. Quindi questi stanno dicendo: ma dove vai? Non stai avendo dei risultati. L'opinione pubblica invece, almeno fino a un certo punto, percepisce un pericolo molto alto e dice: bravo quello che mina più forte. I fattori incidenti sono diversi. Sto dicendo forse, probabilmente, una spiegazione può essere questa, cioè il diverso grado di valutazione che danno i soggetti sullo scenario. Dimmi. Secondo me la questione è quanto, a seconda dello Stato, qua siamo negli Stati Uniti, ma ovviamente c'è una grande differenza. Negli Stati Uniti il valore, l'opinione pubblica ha un certo valore anche nel breve periodo. Non stiamo valutando l'opinione pubblica americana, no, noi, eh? No, attenzione. No. Okay, adesso in questa diretta, però anche in Iraq, se è un paese democratico, un paese non democratico, e ci sono elezioni di breve periodo, dobbiamo considerare un valore, un certo tipo di valore dell'opinione pubblica nel breve periodo. E siamo in un paese che invece non ha elezioni nel breve periodo, possiamo trascurare maggiormente l'opinione pubblica. Cioè, sempre questa variabile. C'è qualcosa, lei, io sono d'accordissimo, c'è anche qualcosa di più. Per esempio, quando leggerete certe variabili, la possibilità di comportarsi in un certo modo è molto più alta nei sistemi democratici che in quelli che non lo sono. Ecco, e di questo si tiene ovviamente conto. Assolutamente. Quindi che altro vogliamo? Hanno due espressioni spesso differenti. E poi ripeto, attenzione, adesso qui stiamo un po' troppo uniformando, le grandezze in gioco sono diverse. Le variabili che esprimono il consenso del tuo paese sono legate, se volete, al breve o al lungo. Siccome questi termini sono così mal definiti nel mondo, non mi accingo, ma di sicuro agiscono prima, non c'è il minimo dubbio. Ma soprattutto sono legati ad altri fattori. Assolutamente ad altri fattori, mentre nel discorso del consenso degli altri paesi è un consenso governativo, perché tra l'altro reggerà una variabile importante per questo modello che non è ancora venuta fuori, perché si tende un po' a sottovalutarla questa. Allora io ve la farei venire fuori dicendole così: ma perché i terroristi? E ti rimetto il diagramma, perché è sempre opportuno avere i fatti davanti. Cosa, Lamberto, dimmi. Possiamo fare una terza simulazione con un terzo valore intermedio? Aspetta, che se no non passa. Un concetto che, se permetti, ti assicuro che è di grande valore. Datemi retta. Perché gli attentati, se volete i numeri, vi continuo a dare le vittime, così l'avete già sotto il naso, c'hanno sto boom e poi si calmano. Cosa è successo? Notate che non è perché abbiamo ammazzato tutti i terroristi, perché le due azioni sono così diverse che è chiaro, a parte che vi posso dare la variabile, è chiaro che però gli ammazzamenti sono molto diversi, dei terroristi come dei collaterali. Perché la cosa moricchia lì sopra? Che è una cosa che non hanno neanche capito i generali americani, che non capiscono quasi mai le aziende, e a cui io credo e sono disposto a incrociare le lame con tutti, il primo e l'ultimo. Perché? Fate delle ipotesi. Cioè il perché di questo calo dopo il picco? Perché hanno piantato lì? Erano contenti, soddisfatti, dice adesso andiamo a pregare tranquilli, magari andiamo al cinema. E tutto. Ah, hai una precisazione, vittime di attentati sono civili o anche militari? No? Come? Ci sono anche i nostri, anche i militari, quelli. Civili, militari. Qualunque vittima. In realtà sono molto più civili, ma no? Vi ricordate dove buttavano le bombe? No, che avevo un'idea, però. Aspetta. Gualandri e poi pettimenti. Gualandri. Sono distinte, se volete, le due. Aspetta, no, un attimo. La mia opinione è che, visto che i terroristi, comunque vogliamo chiamarli, hanno visto crescere proprio costantemente il loro consenso, non hanno più la necessità di fare attentati molto esplosivi, cioè che provocano molti morti, solo che tengono alta la tensione. Stanno ottenendo un successo politico che non ha bisogno di... Indubbiamente c'è questa cosa, ma non è la sola. Siete molto ideali, non vi dimenticate le pere. La mia opinione è che ogni azione militare, ogni azione anche terroristica ha diversi costi, diversa natura. Bravissimo. Ci sono delle risorse in gioco, quello che dimenticano i coglioni dei militari americani. Ma perché diavolo devi andare a ammazzare coi droni i bambini dei villaggi? Tagliali le risorse, che vuol dire tagliali i rifornimenti, tagliali quelle balle lì. Questi signori un po', adesso andiamo a verificarlo, io non sono sicuro, un po' le risorse le hanno depauperate facendo queste cose. Ma vi rendete conto che dopo stiamo per sposare i 10 anni di terrorismo, ancora non si è fatta un'azione seria sulle finanze dei gruppi terroristici? Che vuol dire tagliargli l'erba sotto i piedi, no? Se non c'hai i danè per comprare il biglietto dell'aereo, col cazzo che fai l'attentato alle due torri. Se non hai i soldi, se non hai le armi, mentre in realtà le armi gliele vendono loro, le armi sono risorse, vi ricordo, in questo modello le risorse sono le armi, gli esplosivi, il know-how, ecco, per esempio anche il know-how quando lo usi gli altri lo capiscono, quindi si consuma pure lui, eccetera eccetera eccetera. Vediamo se è vero, no, però un momento, posso sbagliare. Sta cosa delle risorse la dimenticano tutti. Aspetta un momento. Comunque è ragionevole quello che lei ha detto, che lui ha poi tradotto in parole alate. Abbiamo raggiunto il giugenso politico, adesso ragazzi godiamoci, andiamo a farci una bevuta, ecco, una cosa. Allora, domanda, è giusta. Domanda. Però semplificate certe cose, siate anche. In realtà magari non hanno più esplosivi. Beh, vi ricordo che tra l'altro questi avevano i depositi di Saddam e usavano quelli. I depositi dopo un po' finiscono. Oppure ci piove dentro, ecco. Allora. Dopo le vediamo. Abbiamo due ipotesi. Uno che dice. Ma concordano le due ipotesi. Ecco, fino a che punto possono essere questo risultato? Ma perché c'è multicausalità delle cose, valgono tutte e due. È quello che voglio verificare. Sì, abbiamo detto l'altra volta. Eh sì, ma glielo dobbiamo ridire. Cioè attenzione, perché uno degli aspetti, però mi fa piacere, è raro trovare una persona che pensa alle risorse, porca, ma pensateci, però è vero, è la dimmi verità. Tra le risorse includiamo anche quelle umane? No. Consideriamo risorse i mezzi che servono alle risorse umane per fare il loro lavoro, però adesso se volete vediamo però quanti terroristi sono effettivamente morti, infatti, può essere questa la però verità. Mi perdoni, se lei guarda quella teoricamente lei dovrebbe avere la variabile, quella dell'azione violenta, dovrebbe essere quella che ha portato molto di più, no? No, scusami, quello che dice lei, spieghiamo, è anche questo: se tu fai attentati kamikaze e c'hai 500 kamikaze disponibili, quando sei arrivato a quel picco che te ne sei spesi 400, te ne sono rimasti 100. Però vedrai che è poco questa adesso incide, vediamo. Poco, adesso le vediamo tutte e tre. Allora, vediamo le risorse innanzitutto. Comunque, vediamo i terroristi, siccome è chiaro, no, che se ne ho di meno. Allora, quanti sono i terroristi? Vi ricordo che l'attrazione è molto alta, il che vuol dire che gli ranghi si non impoliscono. È detto che però l'attrazione porti a una disponibilità di kamikaze, posso avere un'attrazione. Eh sì, se l'attrazione sale. Però può concentrarsi sui fiancheggiatori piuttosto che su quelli di prima linea. Beh, mica si fermano lì, loro vogliono arrivare al vertice. Non è proprio così sicuro che. Sì, però. No, deve vedere l'eliminazione. Aspetta. Ma no, lascia stare, scusa, te la do io che è meglio. Aspetta, eh. No, stavo fermando lui, non te. No, però se fai così non mi fai trovare le co. Allora, dove sono cacchio sti terroristi? Sotto. No, non li ho presi, guarda lì qui. Allora, vediamo quelli che sono in prima linea, poi vediamo gli altri. Sì. Allora, i terroristi in prima linea che fanno? Questi sono quelli che agiscono proprio, eh? Eh no, vedi che è successo quello, perché certo che l'abbiamo detto. C'è un picco e dopo vanno scendendo. Sì, beh, è logico, eh. E nell'ipotesi quello Stefano, lì, se avevano bombardato tutto, ne hanno ammazzati anche loro, adesso non erano così ciula, ecco, tutto insomma. In effetti lui con l'azione blanda, però tra l'altro ne ammazza anche lui, è un bel po'. È un finto buono. Si riducono in sostanza, nonostante la trazione alta che spinge. Però si perché riducono molto meno con l'azione. Molto meno, la differenza è significativa. Vi do i numeri. Il buon Claudio ne ha quasi 400 pronti vispi che stanno per scendere in campo. Il buon Stefano ne ha 86, ecco, grosso modo, 86-87. È una bella differenza sugli attentati. Attenzione, però qui dobbiamo andare sul futuro, eh. Vedete che il breve periodo non ci spiega mai le cose. Noi abbiamo detto che il buon Stefano ha raggiunto pessimi risultati in termini di attentati, ha avuto molte più vittime di quelle che ha avuto Claudio. Ma attenzione al futuro, perché quando è qui che gli attentatori sono pochi, Nel caso suo probabilmente ne avrà meno in futuro. Vedete che fermarvi presto è sempre un errore, bisogna andare avanti, bisogna vedere le però cose. Attenzione, abbiamo visto anche che la capacità di attrazione con Stefano è più alta, stava scendendo un po' e tutto, però attenzione, non complichiamo le cose. Lui in questo momento parte con meno. Allora io fossi un manager dico adesso voglio vedere 12 mesi cosa succede. Dice sì sì, voi state dicendo abbiamo avuto più vittime, ma io Stefano a questo punto li ho quasi ammazzati tutti, vediamo fra 12 mesi cosa succede e magari la situazione si inverte. La realtà è complessa, ragazzi, se no non saremmo qua. Devi vedere però quanti nuovi ne reclutano. Ma perché li hai ammazzati tutti? Beh, per adesso intanto io ne ho 80 contro 400, vediamo, li devo addestrare prima che vadano in corso, e di sicuro li recluto tutti, guarda che... Allora, risorse dei terroristi, vediamo come stanno. Qui allora, ripeto, è un pozzo, perché se avessi fatto un modello aziendale avrei detto esplosivo, armi leggere, armi pesanti loro non le hanno, e balle varie. Qui li abbiamo messi tutti un po' in un calderone, non cambia il risultato, però sicuramente rende meno accurato il valore. Come stiamo a risorse? Tutti e due i terroristi li hanno quasi consumati. Calano fortemente. Vanno bene. Però stranamente calano di più con Claudio. Perché? E questa è la cosa. Perché? Come arrivano le nuove risorse? E adesso parliamo di quelle variabili che ci sembra un gusto di tenere. Come arrivano le nuove risorse a tutti e due i contendenti in lotta? Un po' sono autogenerate, evidentemente lì avevano depositi anni, ma non solo sono autogenerate, sono anche variabili endogene. Chi manda le risorse? Il sostegno internazionale ha... Il sostegno o il mancato sostegno generano risorse addizionali, quindi se io perdo sostegno internazionale perché sono io quello che manda la forza militare, avvantaggio i terroristi in termini di acquisizione di risorse. I russi gli mandano un po' di esplosivo perché infatti sono incacchiati con me. Era quello che ti osservavo prima. E infatti guarda, la caduta di consenso internazionale per Stefano coincide con una maggiore resistenza di risorse. Di nuovo quello il futuro che non riesco giocherà a capire, però onestamente, e qui mi pongo un problema, com'è che le risorse dei terroristi con Claudio sono crollate e però lo stesso c'è il picco degli attentati dopo. Attentati avvengono poco dopo. Sì, ma le risorse lei quando le consuma? Solo quando fa esplodere la bomba? No, certo, le consumi prima, ma anche siamo scesi tanto, cioè nel senso le due curve sono estremamente opposte. E non sarà la preparazione per far esplodere le bombe? Le risorse lei le consuma prima di quando fa la cosa, no? Sì, ma perché c'è questo comportamento diverso fra le curve? Beh, ma mica tanto. No, perché se tu confronti invece l'intensità degli attentati vedi che non è coerente questo andamento delle curve, che va a spiegarci, sicuramente c'è una spiegazione. Com'è l'intensità degli attentati? Vedi l'intensità degli attentati, ricordati questa curva. Sì. Se riuscissi a sovrapporlo sarebbe il massimo. Cosa vuoi vedere? Non ho capito che cosa. Vuoi vedere le vittime? Gli attentati e le vittime, il valore che abbiamo dato all'inizio. Allora vedi, Claudio ha azzerato le risorse, in effetti poi ha meno attentati, mentre invece Stefano, che ha una curva più ridotta di riduzione delle risorse, ha più attentati. Però guarda come poi, nonostante tutto, c'è questo andamento che un pochino... Io non ho capito la domanda, non riesco a capire il rapporto fra l'azzeramento del... Perché Stefano... Però allora dobbiamo andare in analisi, Se il rapporto è fra i movimenti delle curve. Sul movimento del tempo io posso dire che le risorse si consumano quando fai le cose nel senso che le avvii. Il momento in cui scoppia la bomba è un altro discorso. Per il resto possiamo fare un'analisi a questo punto e potremmo anche scoprire che una variabile l'abbiamo trattata male, per carità. è sempre possibile nelle cose. Ma però facciamo un'analisi allora, andiamo a vedere bene, però a questo punto io devo uscire da sto modulo, devo fare per le due simulazioni una singola analisi, mettendo le variabili l'una, e vi assicuro che vi trovo tutte le spiegazioni del mondo. E dammi tu il via, ecco, dimmi cosa devo fare. Se volete analizzare quello, mi sembra il fatto un po' più insignificante, ecco, del tutto. Ci sono tante di quelle controintuitività, andiamo a complicarci un po' con gli specchi. Segnalare come le curve non seguono un andamento coerente, sono sfasate fra di loro. E sfasate, certo, si chiama inerzia, ne abbiamo parlato prima. Beh, non è solo l'inerzia, è anche il fatto che ovviamente ci sono anche decisioni diverse da parte dell'avversario, che muta comportamento. Ma sì, certo. Anche questo. Che altro vogliamo vedere? Dimmi. No, l'ambiente cambia. L'ambiente cambia. È come se lei applica un modello della Fiat alla Telecom. Che niente fa. Guardi, è una delle grandi aspirazioni degli americani, quelli che hanno guidato un po' questo movimento, e ci siamo anche noi peraltro, che è quello di fare l'oggetto modellone buono a tutto, no? O il purpose, loro dicono. La realtà è singola, la realtà è individuale, tu devi fare il modello della cosa. Io patisco, e mi fa piacere dirlo, spero che anche queste informazioni vi possano essere utili, qualcuno di voi entrerà in azienda. Io è una vita che entro in azienda e mi dicono, Aliberti, un altro modello nuovo, non può prendere quello là e applicarlo qua. E io gli dico, ragazzo mio, tira fuori i soldi perché non si può fare, ti prenderei per i fondelli. Per esempio, nel caso qui, ci sono anche fenomeni culturali, quell'attrazione dell'oltrazismo, per esempio, perché mi ricordo abbiamo guardato, tra l'altro con grosso contributo all'ora tu. C'è un fenomeno culturale che a noi sfugge fortemente in quel caso lì. D'altronde, pensate cosa ha voluto dire, siete storici, l'entrata in scena, io l'ho vissuta da gente che non è storica, che è rimasta, l'entrata in scena dei kamikaze, non la spieghi se non con una cultura diversa, ecco. Prova a andarglielo a dire a chiunque di noi di andare su a fare il kamikaze. Su questo non sono d'accordo con te. Non è un problema solo di culture, è un problema di momento in cui ti trovi, perché tu in Occidente, in Europa, hai avuto solo 30 anni fa Jan Palach che si è dato fuoco, hai avuto Pietro Micca, come ti ricordavo, in un altro contesto. Il problema è anche ma guardate, ancora 60 anni fa abbiamo avuto un sacco di gente che è andata coscientemente davanti a un plotone di esecuzione per non tradire i propri compagni. In via Bramante c'è la lapide Umberto Ceva che si è suicidato piuttosto che parlare, perché quando ha capito che non reggeva le torture dell'interrogatorio si è ammazzato. Quindi attenzione, dipende anche dal momento in cui ti trovi, storico, la disponibilità a giocarsi la pelle. Cioè, io sono troppo ateo. C'è anche la cultura, c'è anche la cultura. Però non pretendo di mettere le mie idee nel modello, è un errore fatale, professore, ecco. Io non le metto mai le mie idee, io devo scrivere equazioni corrette su cui dire. Ma però sono troppo. Lui fa finta di essere neutrale, in realtà non lo è. No, sono neutralissimo. La scienza. Adesso è voi capite che cosa significa. Ho letto sul suo quando lavoriamo insieme su un modello. Che mi ha fatto impazzire, l'ho già raccontata a tutte le aziende italiane. No. Un signore che diceva, questa è scienza buona, è scienza marxista. Sì, come dire, la matematica cattolica, no? E mi è piaciuta questa cosa, l'ho già raccontata tu. Sì, questo. Io sono sulla scienza senza gestire. No, non ero io che lo dicevo. No, non era lui. No, no. Cose non lui è molto creativo, ma ha capito molte cose. Queste cose non le No, guardate che. Voi capite che significa fare un modello in due, avete visto che litighiamo sempre così, Però poi alla fine ho passato due giorni a farlo con Macchione uguale, gli ho anche detto delle parolacce. Anche perché ero senza a me morte. No, quindi mi tratta no, meglio Macchione di Macchione. Macchione mi paga, Io non lo pago e non mi dice parolacce. Io ho 14 famiglie sulle spalle, ragazzo mio, devo stare attento. Guarda che però non sono lo stesso. Questi capiscono che c'hai 14 dipendenti, insomma. Allora, ne ha di più, ne ha di più di famiglie sulle spalle, perché quello che lei dirà influirà anche sulle altre famiglie. No, no, no, sì. Quali altre famiglie? Dice no, anche quelli che subiscono le decisioni, i dipendenti delle aziende. Però non quello che dico io, quello che abbia pazienza, anzi tutto quello che decidono loro, io ripeto, metto equazione di altri e poi c'è un minimo di scientificità in queste cose. Io peraltro ho letto delle cose, ragazzi, io ammiro molto il sindacalismo e tutto, ma ci sono delle cose, ragazzi, che c'è veramente da impazzire nel nostro paese, veramente da impazzire. Comunque non tocchiamo a penso che lui un sindacalista si arrabbia. Quante cose in suo nome hanno fatto il sindacalismo? Che cos'altro volete sapere? Forza! Volevo fare una considerazione sul consenso per il terrorismo. In Iraq ci sono gruppi terroristici militanti differenti con obiettivi differenti e anche spesso in contrasto con e nell'altro modello, questo lei sta vedendo il primo. Lei sta vedendo il primo. Lei qui dovrebbe leggere al posto dei terroristi che mi hanno imposto questi signori qua. No, sunniti, perché erano sunniti, allora erano solo i baathisti che facevano casino. E poi noi questo modello l'hanno cambiato. Perché vi ho dato questo? Perché aveva solo una decisione. Pensate se in due ore aveste avuto 30 decisioni da prendere, perché ci sono gli sciiti, ci sono questi. Qui gli sciiti per esempio sono solo vittime collaterali e fanno incazzare quando gli americani bombardano, si incazzano, ma si incazzano anche un po' per il terrorismo che è sunnita. Vi dovevo dare una cosa, due ore, non l'ha mai presentato nessuno un modello, ecco. Vedete, sono 180 variabili. Quando lei mi fa la domanda, io ho voglia di andare a fare l'analisi, però vedo le due ore, ecco. Però il bello del modello è fare l'analisi, e mi scuso di non averle potuto rispondere, perché servono per quello. Al limite, che sia vero o falso il modello non è tanto importante, è il tipo di meccanismo mentale che si mette in gioco, per cui tu analizzi la cosa. Due ore, solo uno sciagurato così me ne poteva far fare. Ma io ho resistito fino all'ultimo, eh. Io ancora lunedì non volevo venire, io volevo continuare con le mie cose, volevo definirvi le variabili, volevo darvi un po' di mentalità, perché se io avessi fatto così con i miei clienti, il discorso sarebbe stato di sicuro più piacevole, ma sicuramente improduttivo, perché loro l'avrebbero visto un po' come un videogioco. Io vi prego, ma siccome voi siete giovani, avete le menti aperte, non vedetelo come un videogioco. C'è una spiegazione per tutto. Il problema è che non ho i tempi per dartela e non ho avuto neanche i tempi per definirvi le vostre cose, cioè tirare giù due simulazioni così, dico 20 e dico 75 così a cazzo, non è mai successo. Ci pensano 8 ore prima di dirmi nello stabilimento tale mettiamo tante macchine, eh? Ci pensano 8 ore, anzi fanno le pre-riunioni e poi arrivano lì col foglio e poi all'ultimo momento magari arriva il grande capo e corregge le cose così velocemente e tutti noi ci incazziamo. Allora, riprendiamo il discorso sul modello. Qualandri. No, io volevo chiedere come si calcolano le risorse disponibili, perché io ho qualche perplessità rispetto a questo andamento. Secondo me, per quanto riguarda l'Iraq, ho notato che gli attentati sono scesi anche quando ci si è resi conto che il passaggio di consegne tra americani e iracheni sarebbe stato imminente. E poi per esempio, adesso sono solo delle io non ho detto che era l'unica variabile, eh. No. Multicausalità, l'abbiamo già detto prima. Lei mi ha fatto una domanda precisa, rispondo. Lei mi ha detto come si calcolano le risorse? Molto semplice, le conta. Allora, fucili 150.000, non sono vere, attenzione, perché come diceva Pavese, tempo di guerra più balle che terra, qui ci hanno contato delle palle, però lei, usando la simulazione opportunamente, può andare a correggere quei dati, è chiaro che ci vuole. Poi, quanto peso i fucili rispetto alle mitragliatrici? Fucili 1, mitragliatrice 2,5, le ho contate uno per uno. Io prendo i dati, li seleziono. Lui per esempio è stato molto forte, mi ha dato delle fonti notevoli sul modello del terrorismo che non avevo. Open, peraltro. Molto false, ma noi poi le abbiamo aggiustate di coerenza. L'esplosivo l'ho peso, no? L'ho peso il tipo e tutto. Come peso un prodotto, no? Come peso qualunque altra cosa, non è diverso. Restano le variabili cosiddette, i danesi, non c'è nessun problema, vi ricordo che ogni risorsa finanziaria può trasformarsi in una risorsa fisica o immateriale. Il know-how e quelle cose lì, gli do degli indici di dosaggio, 0,100, eccetera, eccetera, quello che mi viene. D'altronde, quando voi parlate di quelle cose lì, incidentalmente misurate, incidentalmente l'ho detto male, istintivamente, io uso quel vostro istinto per renderlo una misura. Questa è l'abilità del modellista, per cui il manager non può fare pure modelli, deve avere uno specialista davanti che gli prende i dati da lui. Il manager dirà, quel know-how lì è un po' più buono di quell'altro. Tu trasformi il più buono in un numero, ma non è importante, anche se poi mi sbaglio del 20% non cambia nulla. Una delle altre cose è guardare l'accuratezza matematica. L'accuratezza matematica è una puttanata, è solo in certe scienze molto di dettaglio che conta l'accuratezza. Qui quel che conta sono le relazioni causa-effetto. Spero che pian piano riuscirvi a testimoniare questo, in particolare la rete sistemica, in particolare il feedback, che non abbiamo ancora gustato nella loro minaccia, perché il feedback ti frega sempre in termini di funzionamento. Comunque misurare quelle cose lì ci vuole niente, come tu dovrai, vai nel magazzino, quanti fucili. Allora, qualche altra cosa. Molinelli oggi la vedo particolarmente per l'effetto caldo, caro della pressione, cioè la vedo poco partecipe oggi. Ah, lo vedi? Che stavi lesso, si vedeva. Niente? Non a te dico, niente? No. Vabbè. Quasi già un po' di saturazione. No, aspetta un attimo. Allora, cominciamo a tirare un po' di fila del ragionamento. Io perché ho voluto fare, voluto fortemente, sia pure cosciente del fatto che avrei sottoposto Lamberto a un'operazione impossibile, che era quella di spiegare un modello in pochissimo tempo. In realtà, più che spiegarlo, a me interessava introdurvi a un modo di pensare diverso. Vi ricordate che all'inizio vi ho detto non mi interessa insegnarvi la storia, mi interessa insegnarvi a pensare storicamente. Questo è un pezzo di questo ragionamento, un modo di pensare che è adeguato alla complessità del presente. Il presente non è più ragionabile con gli strumenti consueti a cui siamo abituati, perché le variabili sono troppe, perché sono in rapporto estremamente differenziato fra di loro. Avete visto come il ragionamento sulle risorse, le disponibilità, le reazioni internazionali, un numero, abbiamo parlato di 180 variabili, che fra l'altro fra di loro un pezzettino, ma del modello del 7700. Quindi vedete come, insomma, voi siete dei ragazzi che hanno 20 anni, la vostra vita professionale, i 40 anni di vita professionale che avete davanti saranno anni in cui probabilmente le trasformazioni saranno molto veloci, rapide e intense. Dovete dotarvi di strumenti. Sai, se a un certo punto un vecchio signore che ormai sta finendo la terza età, la mezza età come me, si rifiuta di imparare a usare i computer, avete visto che sono imbranato tecnologico, poco male, per quello che resta da campare come vita attiva, non è un grande danno. Per voi non è così. Voi dovete ragionare in termini diversi. Qui che cosa ho voluto? Ho voluto dimostrarvi una cosa, mi interessava non tanto spiegare, perché avrei avuto bisogno di ben altro tempo, io spero che l'anno prossimo si riesca a fare un laboratorio dove con altro tempo a disposizione si cominci a ragionare utilizzando un po' di più questo strumento. Per esempio, scusami, una delle cose per cui io ero reticente e che è molto bello mettere poi il modello nelle mani di 4 o 5 sottogruppi, cosa che per esempio in Bocconi facciamo sempre, 4 o 5 sottogruppi che diciamo gareggiano, entre guillemets come dicono i francesi, che gareggiano fra di loro, perché questo scatena molto, c'è sempre il rischio della dimensione ludica della cosa, ma però che scatena molto, quando io prima non riuscivo a rispondere all'analisi, ecco lì tu sei portato, dici quel cancherone là ha fatto tutto sbagliato eppure sta andando meglio di me, e allora ti sforzi di fare l'analisi, per cui si fanno momenti di confronto e tutto. Questo però chiaramente porta via un sacco di tempo, scusami, ma era per aggiungere, per darti un'idea, no, per il tuo laboratorio. Cioè, avete visto come si possono avere risultati assolutamente controintuitivi, come le curve sono sfasate fra di loro, come per esempio, nonostante il nostro Claudio avesse tutto sommato risultati migliori, concreti, meno morti, diminuiva l'attrazione, la capacità di attrazione dei terroristi, anzi degli insorti, però aveva, subiva più attentati, subiva più attentati, però nello stesso tempo aveva un futuro apparentemente migliore, almeno come, linea, cosa che come trend vedere. Come trend era così, però è Claudio e Stefano quello che ha più consensi nella gente. Ecco, vedete come per esempio incide la diversità della percezione, cioè ci sono vari fattori. Allora, se volete studiare soprattutto il mondo della globalizzazione, che torniamo alla prima lezione che vi ho fatto, globale non significa solo mondiale, globale significa anche totale. L'opposto di globale non è solo nazionale o locale, ma è anche settoriale. Allora, se volete capire un mondo che è globale, quindi per sua natura rifiuta di essere settorializzato, perché moltiplica le relazioni intersettoriali, non potete più andare avanti con il pallottoliere. Avete bisogno di strumenti all'altezza della complessità dei problemi. E allora ecco come questo in qualche modo ha iniziato a farvi sospettare. A me basta questo. A me basta che voi sospettiate che c'è un mondo che funziona in modo diverso, che ha strumenti di analisi diversa. Probabilmente questo vi serve anche, non sarebbe male se voi pigliaste l'abitudine, dopo il primo anno, voi avete fatto un primo anno di lezioni, cioè, quindi avete cominciato a capire come funziona il meccanismo. Se voi chiedeste al direttore del corso di laurea di fare un'assemblea di anno, per dire, guarda, abbiamo fatto questo esperimento, ci mancano queste nozioni, queste materie, avremmo bisogno di integrarle così. Guarda che un laboratorio di questo tipo potrebbe servirci perché ci dà uno strumento in più di comprensione. Per esempio, la specialistica, perché non ce l'ha orientata in questa maniera che ci serve a fare sto mestiere? Allora, a me interessava farvi arrivare un messaggio, farvi arrivare il messaggio del discostamento fra la realtà, fra l'essere e il dover essere, fra la nostra capacità di formazione attuale e quali sono i bisogni che si pongono. Se voi andrete a lavorare in azienda o in un centro studio, in un giornale o tutto meno che l'università, ragazzi, scappate, non vi venga in testa di puntare sullo sbocco universitario che vi trovate nei guai. Ecco, il giorno in cui farete questo tipo di lavoro capirete come la vostra formazione deve essere ispirata a questo genere di approcci. Prima cosa che vi ho detto dalla prima lezione, abbandonate i modelli di spiegazione monocausale, perché è rarissimo che nelle vicende umane, soprattutto nelle scienze sociali, ci sia un fenomeno che ha una e una sola spiegazione. È l'assoluta eccezione. Nella stragrande maggioranza dei casi voi dovrete misurarvi con modelli multicausali e dovrete imparare a scomporre il giocattolo, come vi ho detto durante tutte queste lezioni. Quello che voi dovete sviluppare sono le vostre capacità analitiche, la capacità di scomporre. Quello che vi sentirete richiedere fra una settimana, fra 10 giorni all'esame, infatti io vi ho sempre detto, studiate quello che volete, il libro che volete, venite con l'argomento che ritenete, non mi interessa che conosciate l'argomento, mi interessa che abbiate imparato un saper fare, che abbiate imparato a scomporre logicamente un argomento, a ricavare le unità base del ragionamento, per riuscire a ricostruire un modello di spiegazione e quindi anche un modello di decisione. Non c'è decisione se non hai spiegazione della realtà, se non la capisci che decidi, tiri la moneta, insomma, non chiaro? Allora, quello che voi vi sentirete chiedere all'esame sarà, venite bene con una tesi qualsiasi, Israele ha fatto bene a fare l'azione con la Mar di Marmara, o Israele fa male a Gaza, le politiche sull'ambiente di Obama avranno successo, oppure il contrario non avranno successo. a me interessa come ragionate per dimostrare la tesi che affermate. Io voglio che voi veniate con una tesi che sia il prodotto di un ragionamento, mi annunciate la tesi e poi mi fate il ragionamento per capire come ci siete arrivati. E non fate il contratto, non stabilite prima il punto d'arrivo e poi cercate i punti d'appoggio per sostenere. Voi dovete sempre ragionare su un argomento, analizzarlo, scomporlo per arrivare alla tesi. In sede di enunciazione potete enunciare prima il punto d'arrivo e poi, e per un fatto di chiarezza. Quindi, questo a che cosa serve? Serve ad abituarvi ad alcune cose. Primo, se si tratta di letteratura, l'ambiguità è un valore. La capacità di interpretare un'opera letteraria su più piani è un valore, dice che quell'opera è particolarmente riuscita. Se si tratta di scienza, cioè l'ambiguità è un disvalore. Imparate a usare i termini nel modo più univoco possibile, perché altrimenti non farete alcuna operazione di tipo logico. Se un termine slitterà da un significato nell'altro durante il ragionamento, non avrete un ragionamento logico, avete un paralogismo, che è una cosa che è il contrario. Secondo, ragazzi, mettetevi in testa una cosa, io vi do un consiglio. Non è previsto in questo corso di laurea un corso di logica formale. La logica può essere la logica naturale, che è quella che utilizziamo, ma può essere anche la logica formale, che è fatta appunto di formule, è fatta di un linguaggio convenzionale. Io vi consiglio caldamente, per la vostra professionalità, di prendervi un buon manuale di logica e di studiarvelo. È un investimento, vi costerà sacrificio e tempo, ma vedrete che sarà un investimento che vi renderà sul tempo. Seconda cosa. Su questo posso aggiungerti un fatto quantitativo? Gli americani hanno fatto un'analisi e dallo studio della logica formale derivano sensibili, percettibili, evidenti sotto il piano statistico, quindi in sostanza accettabili, variazioni dell'IQ. Spiegami. Dell'IQ, del quoziente di intelligenza. Due o tre punti se li prende come media, avendo solo studiato la logica formale. Ecco. Quindi ragazzi, sperimentazioni fatte dagli americani, non sono prodomo mio. Quindi ve lo consiglio. Terza cosa, questo modo di ragionare vi permette di isolare il nodo del contendere. Se io vi faccio un lungo discorso sulla crisi israeliana e magari sfumo un concetto perché non lo voglio dire in termini troppo crudi, magari perché mi preoccupo che lui è troppo amico di Israele, però lui è troppo amico dei palestinesi, allora quel velo di ambiguità che può mettere d'accordo tutte e due, sì, però non ci siamo capiti. Se dobbiamo capirci, io ho bisogno di isolare il nodo del contendere. Israele qui fa bene, qui fa male. Israele, Iran o chi volete voi. Questo modo di ragionare, vedete, fatto in questa maniera, vi costringe a dire, scusami, qual è la formula del ragionamento che hai adottato? Formalizzami il ragionamento. Quando avrete la è qui che non siamo d'accordo. E qui ha un significato uno solo, non ne ha due. Capite? Qui non c'è la sfumatura, c'è qui non siamo d'accordo. E quindi questo circoscrive l'ambito del confronto scientifico. Ultima cosa che mi permetto di dire è questo. Io ho notato una cosa, la debolezza che voi avete in campo economico. Io vengo dal liceo classico, ho fatto scienze politiche come voi, però in anni in cui l'economia era una cosa un po' diversa, non era microeconomia, era essenzialmente macroeconomia. Io ho visto dal punto di vista macroeconomico c'è una debolezza di formazione. No, se volete fare questo mestiere, questa è una debolezza che dovete curare, assolutamente. Il mondo globale, il mondo contemporaneo non si capisce. Se non si capisce la macroeconomia e soprattutto il mondo della finanza. Consiglio che do sempre, anche se è un sacrificio economico, almeno alla domenica abituatevi a leggere il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore è il giornale che, direbbe Lamberto, è della mia controparte, perché io sono schierato, come voi sapete, dall'altra parte rispetto al giornale della Confindustria, che tale è. Però è il giornale fatto meglio in questo paese, ricco di dati, che ragiona su fatti, numeri, e i numeri sono importanti. Magari a sinistra avessimo un giornale fatto in quella maniera, purtroppo non ce l'abbiamo. Non è necessario quindi, come vedete, essere consentanei rispetto a un giornale, si può anche pensarlo in modo diverso, ma usarlo. Allora ragazzi, consiglio, usate il Sole 24 Ore, imparerete a vedere la realtà di questo paese in modo, in una luce diversa, e vi aiuterà. Questi sono solo alcuni consigli che vi do. Spero che al termine di questo corso, che è stato solo di 20 lezioni, 21-22, quindi non è che abbiamo potuto fare granché, questo era il tempo a disposizione, Lamberto pure ve l'ha detto, io spero di lasciarvi solo due o tre cose: il sospetto che ci sono delle cose che dovete fare da voi per la vostra formazione; secondo, che quello che serve in un corso universitario non è imparare delle materie, è imparare un saper fare, imparare una professionalità, quindi coltivate sempre gli aspetti metodologici. Chi se ne frega se sapete cosa dice il tale autore di antropologia o il tale teorico delle dottrine politiche o Max Weber? Importa che voi queste cose le sappiate per usarle. È chiaro? Allora, se vi resta in testa quest'idea di questo corso, che l'università serve a imparare un saper fare, una professionalità, e che nelle condizioni del mondo attuale la professionalità si misura su questo campo, per cui io vi suggerisco, studiate seriamente logica ed economia, e ve lo dice uno che viene da una formazione umanistica e che ha dovuto fare molti sforzi per cercare di capire queste cose, però ha dovuto farlo, perché diversamente io non avrei potuto farvi questo corso qui. E allora, se vi rimane questo di questo corso, è già un bel risultato e sono soddisfatto. Poi per il resto, ragazzi, auguri, e spero che... Tanto ci rivedremo molte volte agli esami, come sapete, quindi in bocca al lupo. Adesso, se avete qualche ultima osservazione, flash nel giro di 5 minuti. C'è qualcuno che ha qualche osservazione a me o a... dimmi. Questi modelli hanno spesso risultati proprio gestibili. Servono a gestire queste cose. Sì, però dico, non abbiamo fatto l'analisi, però dico, facendo l'analisi, alla fine i risultati risultano. Si spiegano. E beh certo, diversamente. È no, quello che ti ho detto. Contro-intuitivo vuol dire che è contrario all'intuizione, ma non contrario alla logica. Se esatto. No, cioè, le ricordo quel discorso del determinismo, ecco, se noi mettiamo dentro delle regole. Attenzione che il sapere è intuitivo ma anche deduttivo. Può essere controintuitiva ma non controdeduttiva. No, cioè devi, anche se ti restano aree di caso, il caso è invece la misura della nostra ignoranza. Ecco, quando sono troppo grosse sei ciulato, non fai modelli ma non la dici neppure. L'area sconosciuta, l'area dove c'è la nostra ignoranza si chiama caso, no? Perché il concetto statistico è caso. Quando è troppo grossa non ci fai il modello ma non ci fai nient'altro, ecco, non fai niente. No, ci fai la lotteria. E ci fai la lotteria, se che vuoi. È un modo di affrontare il problema. Ci fai l'incertezza, ecco, un concetto che l'altra volta volevo darvi. Allora vi vedo, a proposito, sul mio sito forse pubblicherò le slide del professor Aliberti, però dopo che le avremo. Sono noiose, ma dategli un'occhiatina. Dategli però un'occhiata. Datemi tempo di rielaborarle per degli studenti di scienze sociali, che così come sono troppo aziendali. Vabbè, allora vi vedo tutti il 28? Io a luglio sono nervoso e intrattabile. Parto da 5 voti in meno. Siete cattivissimo, una cosa. Datevi da fare, ragazzi, forza. Dimmi, ultimi dubbi, perché dimmi, ma il l'idea della tesina di scuola si dà contenuto non si fa, in America è l'opposto, cioè non si fa, nelle